Brussellando, viaggio tra i libri, le musiche, le poesie, l'arte, l'agenda culturale italiana ed europea, presentata da Radio Alma e condotto in studio da Mary D, con la partecipazione straordinaria di Georges Laurent, regia di Danny M. A Visegrad c'è un ponte, ponte sulla Drina, un ponte fra la Serbia e la Bosnia, un ponte fra il mondo cristiano e quello musulmano, un ponte fra l'Oriente e l'Occidente. C'è un ponte, come in ogni altro dove, fra il passato e il futuro. Cari amici, cari amiche, benvenuti a Brussellando. Spero che avrete indovinato perché Danny M, che saluto in regia, ha Buonasera fatto questa a tutti. Bella citazione da Ivo Andrić, perché stasera parliamo i ponti in compagnia di Paolo e Stefano del Jazz. Buonasera. Ciao, buonasera a tutti. E stavolta eccezionalmente Fiordaliso ai microfoni, e confessando che mi manca tanto sia Mary D sia Jean Laurent. Sì, ci manca un po' a tutti, siamo soli oggi. Soli, soli soletti, no. Però mai solitari. Ed ecco che apriamo la puntata sul ponte, avremo anche un ospite in studio, una poetessa che ci parlerà dei ponti. E poi vi proporremo tutte le nostre belle tematiche relative a questo soggetto. Beh, ovviamente, cioè, la definizione fisica di un ponte non riserva troppo di poesia. Dicono: un ponte è una struttura utilizzata per superare un ostacolo naturale o artificiale che si antepone alla continuità di una via di comunicazione. Sì, poi ci sono molte altre definizioni, in realtà anche più vicine a noi. Per esempio, ieri in Italia era ponte. Ah. Che permette di superare uno di quei problemi, che è di andare a lavorare. Un grosso problema della vita di tutti. E quindi in questo caso si dice in Italia si fa ponte, e mi sembra un'accezione importante da utilizzare sul piano sociale. Noi non l'abbiamo fatto questa settimana ponte, siamo qui a lavorare questo 2 giugno assiduamente. Esatto. Eroici. Eroici. Ecco, ma ovviamente i ponti non si fermano là, i ponti sono fra le persone, i ponti ci sono fra le idee, i ponti ci sono fra autori, fra il pubblico, cioè, i ponti ci sono ovunque. Beh, oggi poi è importante, per esempio, i ponti fra le civiltà, i ponti fra le religioni, sono tutti aspetti fondamentali, direi, con conseguenze concrete molto importanti. Spero che abbiamo già la nostra ospite in linea. Sì, sì, abbiamo in linea Mariella De Santis, che abbiamo già avuto ospite qui a Radio Alma il 21 marzo del 2008, per cui una grandissima sorpresa riavere Mariella De Santis qui con noi. All'epoca l'abbiamo avuto tramite dei brani, sono una poetessa e file sonori, quest'anno invece ce l'abbiamo finalmente in diretta. Qualche breve notizia bibliografica prima di cominciare a parlare con Mariella. È nata a Bari in un raro giorno di neve del 1962. Di natura poco stanziale, vive inspiegabilmente da alcuni anni a Milano. Alla ricerca scritturale unisce un attivo impegno in campo culturale teso a creare momenti di elaborazione di pensiero comune su questioni di interesse letterario e sociale. Collabora con case editrici, riviste e centri di ricerca. Ha curato rassegne culturali con particolare attenzione all'intreccio dei saperi e delle esperienze, da cui i ponti. Partecipa a festivals e reading poetici in Italia e all'estero. Per tutto il resto, invece, proporrei di dirlo e di chiederlo direttamente a Mariella, che è qui con noi. Mariella! Buonasera! Buonasera, come stai? Non male, grazie. Oggi qui in Italia è il 2 giugno, la festa della Repubblica, quindi particolarmente rallegrata da questa circostanza. È una festa importante da tenere a memoria. Certo, certamente. Noi anche, diciamo, qui in Belgio ieri era appunto una festa religiosa, l'Ascensione, quindi un po' di aura festiva c'era anche qui questi giorni. Un piccolo ponte. Un piccolo ponte, benissimo, per entrare subito nel tema della serata. Certo. Allora, Mariella, noi stasera parliamo di ponti. Tu che cosa c'hai da raccontare ai nostri ascoltatori qui a Bruxelles? Dani, la prima cosa che mi viene da dirti, da dire a voi, a te, agli ascoltatori, pensando al tema, ai ponti, è la mia rivista, la rivista che io condirigo, Smerigliana, che si chiama proprio Semestrale di Civiltà Poetiche, proprio perché la nostra idea, il nostro intento è quello di andare a far parlare, a collegarci con le realtà poetiche di tutte le parti del mondo, ed è per questo che siamo una delle prime poche riviste italiane che pubblica testi in lingue veramente desuete, che possono essere l'hindi, il giapponese o il cinese, ma anche lingue molto più rare, tipo il mongolo, tipo il birmano, insomma, pubblichiamo testi poetici in prima lingua, ma questo significa proprio cercare relazioni, cercare connessioni, creare ponti tra le civiltà, far parlare i paesi attraverso le loro civiltà poetiche. Ah, benissimo, noi abbiamo, ti presento i nostri ospiti e conduttori in studio questa sera, abbiamo Fiordaliso. Buonasera. Paolo. Ciao, buonasera. E Stefano, che ciao, anche buonasera. Loro sono molto interessati al tema della serata e hanno voglia di dialogare con te, per cui direi che possiamo aprire il nostro colloquio e i nostri ponti tra di noi Italia-Bruxelles. Con gioia. Sono Stefano, Maria, ciao, volevo domandarti proprio una cosa su questa informazione, cioè formina interessantissima sulla rivista, sicuramente molto originale. Allora mi domandavo anche in termini di punti, se ci sono questo tipo di pubblicazioni in lingue particolari, certamente abbastanza rare in Italia, voi in questo per la diffusione fate anche, traducete anche in italiano in modo da costituire un ponte, oppure che tipo di approccio c'è in questa presentazione? Perché insomma, è abbastanza particolare, no? Cercare di far fruire questo tipo di lingue. Certo, sì Stefano, senz'altro, la rivista è una rivista scritta in italiano e pubblicata in italiano, ovviamente sempre con testi a fronte, il primo testo, il testo in lingua, ma con traduzioni. La rivista è imponente, noi pubblichiamo 500-600 pagine a numero, appunto siamo un semestrale, però ci avvaliamo di un forte comitato scientifico che ha radici in tutte le università del mondo, e quindi da qui ci viene una collaborazione Savasandir gratuita, perché sulla cultura c'è poco che purtroppo si possa mettere a disposizione economicamente, una collaborazione gratuita di grandi traduttori che lavorano per la rivista, proprio perché c'è una concordanza su questo progetto comune di indicare delle direzioni, di attenzione sul fare poetico che riguardino tutto il mondo. Giovanni Ragoni diceva che Smerigliana è una delle poche riviste che può appunto rappresentare a livello europeo l'Italia per questa tensione che ha di dialogo con tutte le civiltà poetiche, con tutti i mondi. Mariella, ma tra queste tante civiltà qual è quella che per te è più interessante, quella a cui tu sei più legata nel tuo percorso scientifico? Sai, non è facile, perché c'è la civiltà del cuore che è quella sulla quale mi sono formata, che è la letteratura e la poesia francese, però c'è quella anglosassone che trovo di una grande verticalità, di una grande capacità di rinnovarsi come forse poche altre poesie, e poi c'è tutto l'esotico che diventa erotico, come dicono gli psicologi sociali, che è quella del mondo medio orientale, che conosco abbastanza, sono stata ospite dell'Università di Teheran, sono stata per diverso tempo in Siria con ospite di amici poeti, e quindi amo molto questa attenzione viscerale che la gente ha per la poesia, per la parola poetica. Però nella mia formazione indubbiamente c'è la linea anglofona e quella francofona, sì, indubbiamente sono quelle che per cultura sento ancora molto affini. Poi c'è l'attenzione per la diversità, e questo è un complemento, è un po' la mia natura, poi, che è così. Io sono nata a Bari, come avete detto, ho una forte radice mediterranea, ma ho una formazione un po' calvinista, e quindi per questo è una realtà un po' più congeniale quella milanese per me, insomma. È tutta una storia un po' così. Mariella, io volevo fare questa riflessione. Sì. tu organizzi questa rivista, festival, e per fare ponti tra culture, modi di pensare diversi, ma secondo te non è proprio la scrittura stessa, che sia poesia e che sia semplicemente anche prosa, una sorta di ponte tra chi scrive e chi legge? Indubbiamente, però sai, esistono i mattoni, esistono i cavi di ferro, esiste il cemento, esiste tutto, ma se non c'è qualcuno che queste cose le disegna, le progetta e le costruisce in maniera che abbiano una funzione, questi materiali in sé, allora le scritture esistono e in sé hanno un valore ontologico intrinseco, ma noi abbiamo un po' di dovere morale di porgerle. E questa la fatica, e questo è un lavoro che tutto sommato, credimi, lo scrittore non vorrebbe fare. A tutti noi piacerebbe pensarci queste interminabili ore davanti alla tastiera del computer, ormai non più carta e penna, e lavorare, ma è un dovere morale, secondo me, creare dei collegamenti, portare le culture. D'altra parte non è una mistificazione, non è una fola che ci sono realtà marginali. Io come donna che ha vissuto molto in Italia, in giro, e comunque ho questa provenienza dal sud, conosco che cosa vuol dire fare per esempio lavoro culturale, lavoro letterario nel sud Italia. C'è una sorta di linea, certo, Maginot, che da Roma in poi impedisce ai valori di venire fuori, impedisce o comunque, diciamo, rende difficoltoso, forse impedire non è un verbo adatto, rende difficoltoso ai valori di emergere. Beh, io mi sento anche nel dovere morale di crearle questi dialoghi, queste connessioni. E noi te ne siamo grati. Noi te ne siamo grati, sicuramente. Grazie. Io avrei un'altra curiosità, se posso. Prego. Che è nazionale, non è divisione fra sud e nord, ma riguarda l'Italia e riguarda anche il concetto che c'è dietro la rivista, chi fruisce della rivista e tutto il resto. Mi domando, in Italia ci sono più poeti o ci sono più lettori di poesie? Purtroppo, sai, dovremmo dire che ci sono più persone che riconoscono un valore a se stessi attraverso la scrittura, particolarmente in versi. Da questo a essere poeti, e lo dico senza alcuna spocchia, perché io ho un atteggiamento poi cordiale, affettivo verso tutti, verso l'umano, insomma. Tra essere poeti ed essere scrittori di frasi che vanno a capo a un certo punto, c'è una bella differenza. E purtroppo io credo che i poeti leggano anche abbastanza le riviste o i libri, ma sono i millantatori di poesia che invece leggono poco. Sterigliana è una rivista che si rivolge sicuramente ad un pubblico già educato, ad un pubblico curioso, ma al quale la poesia non è sconosciuta. Prego? No, ti stavo solo ascoltando. Non è una rivista che si possa dire proprio divulgativa, ma non è neanche una rivista accademica. Ha cercato di occupare quello spazio tra l'accademico e il divulgativo, che un non altro è punto, potremmo da, dire. Da collocare. Però se ogni tanto, se si leggono le statistiche, i bollettini sui libri pubblicati ogni anno in Italia, e in particolare di poesia, si rimane sconcertati, perché non c'è assolutamente proporzione tra quello che viene editato e quello che viene venduto. Mariella? Infatti questo era un po' il punto di partenza della mia domanda, della mia sensazione, che appunto la quantità di libri pubblicati poi non corrisponde necessariamente alla quantità di libri che poi riescono a trovare una circolazione, ma mi sembra molto interessante la distinzione che tu hai fatto, appunto, senza nessuno snobismo fra essere un poeta e scrivere in versi, questo è importante. Sai, io penso che non ci sia nulla di male a scrivere, dipingere, non so, fare quello che qualsiasi attività umana possa portare di letto nella vita. Quello che è importante è capire se si è nella sfera del diletto o dell'impegno, del lavoro letterario, del lavoro artistico, perché è lì che c'è una bella differenza. Essere dei dilettanti, degli amateur, è una cosa apprezzabilissima, perché fa bene a te, e facendo bene a te tu fai bene al mondo in cui stai. Ma se scatta quella idea o quella falsa idea di essere un artista, magari anche un grande artista, al di là dei propri mezzi, si fa del male a sé e si fa del male al mondo che c'è intorno, perché si inquina e si creano false aspettative e si creano meccanismi di competizione assolutamente patetici nella poesia, nel lavoro intellettuale e così via. Siamo totalmente d'accordo con te. Guarda, io ti volevo chiedere una cosa su cui riflettevo già da qualche tempo. Lo strumento cartaceo, no? Si vede recentemente, ci sono stati anche degli studi, delle invenzioni, il foglio elettronico, eccetera, che stanno comunque facendo in modo, stanno provando di sostituire al foglio cartaceo un supporto diverso, e internet, tutto quello che è, diciamo, la telematica e internet, si stanno comunque espandendo anche da questo punto di vista. Secondo te le nuove tecnologie, internet, i blog, Twitter, tutte queste cose, sono realmente dei ponti o tendono a essere un po' fine a se stessi? Ma guarda, sono dei ponti per andare da una parte all'altra, questo non è il viaggio. Stiamo attenti, l'itinerario non è il viaggio o il trasporto non è il viaggio. Allora, se io su internet voglio avere l'idea, sapere chi è Mariella De Santis, vado su Google, digito nome e cognome, avrò 260.000 aperture e vedrò un po', cercherò di capire. Se io però voglio entrare in una relazione con questo autore, chiaramente dovrò fare un lavoro che per sua stessa natura la rete e il materiale pubblicato in rete non mi permette, un lavoro di approfondimento, però ecco, in questo senso ti dico, è un ponte, ma un ponte non è il viaggio. Il viaggiatore poi affronta le vie che trova davanti, il ponte ti porta da una parte all'altra, e quindi in questo senso credo che le nuove tecnologie, la rete, possano essere di grande stimolo alla curiosità. Ah, guarda, ma non la esauriscono, tra l'altro, anzi, devono essere, secondo me, questa è la loro funzione vitale, darti delle tracce. Io faccio molta ricerca bibliografica, per esempio, in internet, ma perché mi dà delle tracce da seguire che poi approfondisco in libreria generalmente o in biblioteca. Guarda, mai dimenticare le biblioteche. Siamo molto contenti che abbiamo toccato il tema del viaggio, perché noi aprimmo Bruxellando 2 anni fa proprio con il viaggio, ed è un tema ricorrente appunto della nostra trasmissione. Noi siamo tutte orecchie, se tu hai qualcosa da raccontarci, qualcosa da leggerci, dei tuoi scritti, saremmo veramente molto contenti di poter far fruire a tutto il pubblico di Bruxelles, pubblico italiano di Bruxelles, delle tue opere. Va bene, d'accordo. Io leggerò, intanto appunto, parlando di rete, do delle indicazioni bibliografiche, sitografiche si dice indicazioni sitografiche, di siti che vale la pena, al di là, assolutamente al di là della mia modestissima presenza, di visitare, e sono www.novurgia.it, dove ci sono le camere dei poeti, alcune, la mia lo è, anche con l'apparato audio, e i testi poetici di alcuni poeti che hanno fatto questa scelta di lavorare molto con i compositori di musica classica contemporanea, e anche collegandosi al sito www.simc, Società Italiana Musica Contemporanea, simc.it, si andrà in quel sito a visitare le camere dei musicisti e vedere, capire il loro lavoro che fanno con la parola e con la poesia. Quindi sì, mi sono ricordata di questo perché leggo un testo che potrà essere ritrovato anche Benissimo. Su Novurgia. Benissimo. E si chiama Sorelle. Le mie sorelle vorrebbero che non leggessi a Gotha Christoph o Ingeborg Bachmann, che smettessi di tenere gli occhi sui loro scritti. Le mie sorelle vorrebbero il mio sguardo più spensierato e leggero, senza le rughe tra gli occhi. Quando noi tre ci incontriamo, ridiamo molto, ci abbracciamo e baciamo sulle guance dalla pelle sottile. Abbiamo allora l'impressione di non essere mai state infelici. Io e le mie sorelle mangiamo grandi fette di anguria e il frutto zuccherino ci fa lucide le dita, le labbra. Dopo ci addormentiamo esauste sul grande letto, ma io faccio soltanto finta. Quando le vedo, sopite e sorridenti, sottovoce sussurro nelle loro orecchie le parole della trilogia della città di K. Questo è un breve racconto di prosa poetica ed è una delle scritture che mi appassionano molto, rendere, restituire la dimensione del racconto in pochi secondi, a volte insomma appunto meno di un minuto. La fotografia che ci hai dato è molto nitida, molto immediata, infatti. Grazie. Invece un testo più poetico, un testo di poesia, dal libro Porta d'ingresso, che è un'edizione di Signum con disegni di Mariangela De Maria. Porta d'ingresso. Fumo una porta d'ingresso, un numero civico che fatico a rammentare, una corsa in taxi per le vie di Roma che dell'autunno scroscia nel grembo delle donne la sottile decadenza. Non altro nascondono le poetabili foglie d'oro o le muffe dei funghi, se non quel simile umore che, a corpo ancora non freddo, si netta per decente inumazione. E te ne vorrei leggere una sui ponti. Sì. Si chiama Punti Cardinali. Potremmo chiudere appunto su questa, con questa sui ponti. Comunque veramente ci hai trasmesso emozioni molto forti e anche i ragionamenti che abbiamo fatto finora penso che possono sintetizzare in parte tanti ragionamenti che abbiamo fatto qui a Bruxellando e sicuramente sono un ponte per nuovi viaggi che faremo. Benissimo, io li seguo i ragionamenti di Bruxellando e veramente portano lontano. Bene, allora chiudo e vi saluto con questa poesia che si chiama Punti Cardinali. Verso sud, dove più tu sei lontano, ci sono io. A est la tua gioia che è sempre per domani. A nord ti fermi, anche se vorresti andare. Forse a quel sud guardando, da cui fuggo io, e non ci incontriamo mai, se non nelle punte ad ovest di due letti solitari. Grazie. Dani. Grazie mille per questa poesia dei punti cardinali, molto molto molto molto toccante. Noi qualche tempo fa avevamo dedicato una puntata ai venti, al vento e quindi ai venti, mi ha rievocato quelle immagini anche, non solo i punti cardinali, insomma immagini molto forti e appunto mi ha rievocato tutte queste cose, tutto questo percorso che abbiamo fatto con Bruxellando finora ed è veramente molto molto bello. Tu se tien, Dani, no? Così, alla fine dicevano i greci, chi vive si incontra, e questo credo che sia vero per voi che la fate, la radio, per noi che vi ascoltiamo. Beh, noi siamo contenti di averti incontrato. E quindi sì, chi vive si incontra. Va bene, guarda, noi ti ringraziamo, ti salutiamo e poi sicuramente rimaniamo in contatto. Senz'altro, un grande abbraccio a tutti. Ciao. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Eccoci ritrovati, buonasera di nuovo, dopo questo bell'intermezzo poetico, un po' di agenda brussellese. Comincerei con un evento che ha avuto luogo tipo ieri, no, oggi. Oggi si apre per il pubblico il museo Magritte, che direi che è un altro ponte, per un mondo tutto da interpretare dal pubblico stesso. A guardare i quadri fantastici di Magritte, che in questa esposizione ce ne sono addirittura 200 opere, uno si può immergere in questo mondo fantastico e trovare degli appigli. Infatti Magritte era uno di quelli che dopo aver dipinto un quadro mostrava il quadro agli amici e gli chiedeva di dargli un titolo. E quindi i titoli a volte sono molto strane, sembrano anche un po' sconnesse dalle opere, ma sono comunque delle vedute di gente, di amici di Magritte su quel quadro. È un'esposizione molto interessante, con tanti citati, tanti anche documenti di interesse, quindi ve lo raccomando con calore, diciamo. Tra parentesi, sabato, questo fine settimana, prima dell'apertura, il centro città di Bruxelles era invaso da schiere di replicanti di Magritte che ballavano con ombrelli e mele e bombette. come canti di quadri di Magritte, certo. Perché lui era un po' diverso come tipo. Ma anche lui, poi siamo rimasti stupiti a vedere che in certi filmati anche lui in realtà si vestiva in questo modo un po' bizzarro, giocando con la propria immagine. Intanto chi va a visitare la casa di Magritte vedrà che cosa, che tipo di happening faceva, però quando era in vestiti normali o nella sua vita normale era soltanto un borghese sì. Totale. Ma poi Stefano, guarda, io alla casa di Magritte andai a visitarla, fu il primo museo che ho visitato qui a Bruxelles, e non conoscevo tanto Magritte, conoscevo un paio di cose, e io quello di cui fui colpito furono due cose. La prima, il fatto che lui nasceva come grafico pubblicitario, e fece un parallelismo all'epoca con Simenon, nel senso che sia Magritte che Simenon, per guadagnare dei soldi, come diceva lui, per pagare le mie fatture, pour payer mes factures, erano obbligati a comunque fare lavoro tra virgolette di bassa lega, cioè scrivere, fare pubblicità uno e scrivere romanzi polizieschi l'altro, tutti e due belgi, mentre le loro vere opere erano opere sicuramente più elaborate, che però pochi, di cui pochi potevano fruirne, e soprattutto quello che insomma mi colpì moltissimo di Magritte è che lui cominciò a essere apprezzato dopo la sua morte. Cioè lui fu denigrato addirittura, dovette muoversi da Bruxelles, andare a Parigi, perché veniva tacciato insomma di qualcuno, di un voyou, come dicevano qui in Belgio, e un visionario, e andò a Parigi e trovò fortuna. Però sono molto contento che la città di Bruxelles, capitale o sedicente capitale europea, finalmente dedica un museo interamente a uno dei suoi grandi artisti di spicco. Sì, lui ebbe un grande successo in Francia, anche negli Stati Uniti, ad esempio, a New York. Il suo agente gallerista di tutta l'ultima parte della sua vita è statunitense e segue la commercializzazione della sua opera, che tra l'altro, forse memore dell'esperienza pubblicitaria, Magritte gestisce con intelligenza. C'è una proliferazione di cose firmate da lui con la sua firma ben in vista, insomma è un mercato gestito con intelligenza. Imola, hai un altro suggerimento prima di passare all'angolo del jazz, che vedo che i nostri Stefano e Paolo stanno scalpitando sotto i 29,1 gradi dello studio di Radio Alma. Esatto, io infatti vi raccomanderò una cosa completamente diversa, un altro ponte, stavolta verso la Sicilia, ed è un ponte culinario stavolta. Se volete imparare a cucinare un menù siciliano, per esempio crostini alla caponata di melanzane, pesto alla trapanese, tonno impanato, eccetera. No. Alle ore 21:29. mi dispiace, sono crudele. Allora vada all'indirizzo www.sasasa.be. Sasasa. Sì, e si interessi per le possibilità di prenotare, l'evento stesso avrà luogo il 10 giugno 2009. Sembra una prova microfoni a questo sito web, sasasa.be. O sembra una prova per voi. Muovete l'anca. Qui la situazione sta sempre più calda. Ha sentito la nostra sigla, Paolo? Siamo assolutamente immersi in un bagno turco, e forse il ponte di cui vi parliamo questa sera è un ponte tra musiche di luoghi diversi e lontani, partendo dal Sud America, vero Stefano? Sì, l'idea di oggi è proprio questa dei ponti fra generi musicali. In fondo i generi musicali servono per così catalogare la musica, ma poi ci sono tante di quegli esempi, di quegli artisti che non sono facilmente catalogabili, che fanno una musica di ponte, come appunto questa che noi presenteremo stasera, a partire da questo primo gruppo che in fondo ci si accorge che è solo una classificazione appunto fatta ad hoc, ma non risponde alla realtà. Il primo gruppo che sentiamo si chiamano gli Azimuth, che fanno da ormai 30 anni rotti una musica che loro chiamano, alla fine la cosa più importante, come la chiamano loro, Samba Doido, che traducono come Samba Matta, Crazy Samba. Beh, in effetti adesso sentirete già un trio e riescono a produrre una quantità di musica straordinaria, mischiando insieme jazz, funk, samba appunto, in maniera interessantissima. Questo pezzo in particolare è uno dei loro più famosi, è famosissimo anche in Italia, lo riconoscerete subito, non vi diciamo perché lo riconoscerete, ma forse non vi renderete conto che questo pezzo è del 79, quindi ha 30 anni. Thank you. Azimuth con Roberto Bertrami alle tastiere, uno dei tantissimi italo-brasiliani che con questo bellissimo tema, che è conosciuto perché, Stefano? Beh, perché era la sigla di questa importantissima, questo importantissimo programma della Rai, era Mixer. Ah, anni di giornalismo diversi da quelli di oggi. Noi potevamo scegliere questo come sigla, ma purtroppo purtroppo è già stata utilizzata. Ragazzi, quando mi porterete la sigla di Dribbling... Beh, guarda, non ci provocare, adesso ci possiamo vediamo, lavorare. Ci lavoreremo sopra. Abbiamo altre sigle in mente che conosci e che metteremo, però quando nessuno se lo aspetta, se no. E molte vengono dal Brasile, eh? Una su tutte, mana mana. Sì, ma vedremo inserito. No. Questo prova che il Brasile non è solo samba tradizionale, come viene sempre individuato, ma si espande in un'enormità di altre. Infatti, qui avete riconosciuto delle tastiere molto, molto funk, ritmiche, però brasiliane, cariche. Tastiera ci porta al prossimo pezzo. Ah, il prossimo pezzo ha una storia molto divertente, perché è di un gruppo di artisti Astrui, un gruppo di artisti americani che nascono nell'ambiente del remix e dunque rielaborando pezzi diciamo dei decenni passati, mescolandoli spesso con ritmiche hip hop, e gli succede una cosa piuttosto tipica in anni di contenzioso su a chi appartengono i pezzi musicali. La casa alla quale appartengono i diritti di molte delle cose che loro campionano gli chiama e gli dice: ma come vi permettete, state utilizzando il nostro materiale. Certo, però in realtà si fa rivivere questo materiale, perché poi diventa qualcos'altro, come in questo caso. Esatto, tant'è ha una sua identità. Esatto. Gli dicono: va bene, siete bravi, però allora questo materiale usatelo, ma usatelo nel nostro interesse. Cioè EMI Records dice a questi ragazzi: va bene, vi mettiamo a disposizione la nostra ricchissima library di Blue Note, fateci un po' quello che vi pare. E questo è importantissimo, perché permette anche a dei giovani che non avrebbero mai ascoltato pezzi di 40 anni fa, di 50 anni fa, di riconoscere i pezzi, anche se poi spesso li individuano con questi nuovi gruppi, non come originali. Questo pezzo che ascoltiamo, famosissimo, di Herbie Hancock, è un pezzo del 64, e voi sentirete come è stato modernizzato, come è stato anche reso in maniera simpatica, soprattutto dall'attacco che vedrete, è un po' un'introduzione vocale molto, molto divertente. Tra l'altro il buon Hancock con questi pezzi sicuramente è entrato nella storia della musica molto più degli Astrui, non c'è alcun dubbio, però questi si tolgono la soddisfazione non da poco di vendere più di 1 milione di dischi, di copie con questo disco, che va in platino dunque e che sorpassa notevolmente le vendite dell'originale. Mai un disco Blue Note, che è un'etichetta molto tradizionale, jazz funk, va oltre il platino. Bene, quando sentite parlare di acid jazz, adesso potrete assimilarlo a quello che facciamo ascoltare adesso. Astri, Cantaloupe, da un disco del 93, Cantaloupe originalmente del 1964. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records. Yeah. Stefano si è lanciato, perché anche lui è un'anima di pop, lo sappiamo, ogni tanto la tira fuori, ogni tanto non resiste, ma a fare quegli io. Come si fa a resistere con questi pezzi che riescono a mischiare bene il 50 anni fa alle ritmiche attuali, con queste pause, con queste batterie sotto? È un pezzo splendido, effettivamente hanno fatto un'operazione bellissima. Non gli riesce una cosa altrettanto bella a questi ragazzi negli anni successivi, ma continuano a lavorare e trovate i loro dischi ancora in circolazione, un album del 97, Broadway and 50 Second, molto interessante anche lui, non forse quanto questo del 93. Beh, sicuramente, come dicevi tu prima, questa riedizione di pezzi permette anche di andare indietro e conoscere quelli originali. E quindi Cantaloupe Island era il titolo originale, sicuramente poi è stato ascoltato da tantissimi altri giovani sulla base di questo pezzo. E adesso noi abbiamo un'altra rielaborazione che mi sembra molto interessante, che sicuramente costituisce un ponte in questo caso fra il rock e il jazz, che non è proprio una cosa banale. Certo, questi artisti che vi abbiamo già fatto sentire in un paio di occasioni sono i Bad Plus, un terzetto statunitense, ragazzi del Minnesota e del Wisconsin, che decidono di mescolare uno dei pezzi sacri della musica rock grunge degli anni 90, che è Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, dall'album Nevermind, con un'esecuzione puramente jazz. Li sentite? Sono The Bad Plus, Smells Like Teen Spirit. Spirit dei Nirvana nell'esecuzione dei Bad Plus, un trio che, come potete sentire, riesce a generare una quantità di musica straordinaria. E secondo me in questo pezzo quello che è veramente speciale è come si è passati dal rock duro di chitarre tiratissime, di bassi un po' slabbrati, ad una musica che invece ha tutta una sua atmosfera, no? Il piano al posto delle chitarre, e si rende completamente un genere diverso. È come quando si ha un ponte e passando da un lato all'altro del ponte si trovano delle realtà completamente diverse, ma sono collegate fra loro. Bellissima operazione. E finiamo con un quarto artista, un vero maestro anche lui dei ponti e del unire cose diverse, che è DJ Shadow, alias di Josh Davis, un californiano del nord della California, della zona vicino a San Francisco, che cresce a pane, birra probabilmente invece che vino, e hip hop, ed è uno di quei ragazzi che alle feste mettono i dischi e che ascolta tutta una compagine di gruppi hip hop che incorporano un DJ nella loro formazione. Sì, io sono molto invidioso di DJ Shadow e dovrei anche parlarne con mia moglie, perché DJ Shadow è una di quelle persone che sicuramente ha ascoltato un'enormità di musica e ne ha percepito e riassemblato, ma va detta una cosa importante quando mia moglie si lamenta di quanti dischi io ho. DJ Shadow ha una collezione di 60.000 dischi, quindi io potrei accontentarmi anche in futuro di arrivare solo al 10% di questo, sarei esatto. Già felice. Diciamo, Antonella, sii paziente, stiamo lavorando per portare Stefano alle altezze di DJ Shadow. In realtà stiamo lavorando per un Guinness dei primati. Tant'è che nel disco che gli apre un po' il successo commerciale, che è Introducing, ci sono fotografie della collezione di dischi, di vinili proprio, stanze con pareti e pareti, da cui naturalmente lui pesca, ed è la sensazione familiare a tutti coloro che amano il vinile di avere questo assortimento. Beh, adesso se facciamo sentire che cosa riesce a fare dopo aver pescato, perché anch'io sono capace a pescare, però sono un po' meno capace a mettere insieme questi ingredienti per poi tirar fuori dei piatti meravigliosi come questo pezzo che faremo sentire da un suo disco del 2002, e il pezzo si intitola Fixed Income da Private Press, che è un disco del 2002, DJ Shell. Shadow splendido con Fixed Income da Private Press, e con questo quarto ponte tra generi musicali chiudiamo la puntata sui ponti di oggi. Beh, speriamo che la nostra passeggiata su questi ponti musicali sia stata piacevole, così come è stata piacevole prima nostra passeggiata su ponti poetici, e adesso tra un po' avremo anche dei ponti letterari, insomma oggi grandi ponti. Grazie a tutti, un saluto e buonasera. Ciao. E prima dei ponti letterari, qualche consiglio della regia per dei ponti, diciamo, di concerto. Alla Piola Libri abbiamo un trittico di concerti nelle prossime due settimane molto molto interessanti. Allora, il 5 giugno alle ore 19.07, orario che contraddistingue la Piola Libri dalla sua fondazione, abbiamo il concerto di Lady Flavia, musica reggae soul, quindi venerdì 5 giugno ore 19.07, Rue Franklin 66-68 a Bruxelles. Sabato 13 giugno, massimo volume in concerto, musica post-rock, sempre alle ore 19.07, quindi sabato 13 giugno, massimo volume. Il giorno dopo, venerdì 13 giugno, il giorno dopo, sabato 14 giugno, Il Genio, sempre alle ore 19.07, in concerto alla Piola Libri, musica minimal electropop. Per gli ascoltatori di Bruxellando vorrei ricordare che siamo a disposizione di due biglietti gratuiti per questi concerti, per cui se siete interessati non contattate la Piola Libri, dovete contattare direttamente Radio Alma allo 02 34 52 26 56. Come dicono i francesi, il primo arrivato il primo sarà servito, per cui telefonate numerosi oppure mandate un'email a bruxellando@gmail.com e noi appunto comunicheremo alla Piola Libri i nominativi delle persone che hanno vinto questi biglietti. Vi ricordo, per i nostri ascoltatori e anche per gli utenti del nostro blog, che sabato 14 giugno, all'occasione del concerto di Il Genio, Mary D e Dani M di Bruxellando incontreranno l'artista prima del concerto, per cui potremo trovare l'intervista direttamente sul nostro blog. E ora vi lascio all'angolo del libro, o al librangolo. Buonasera, allora, con il blangolo e i ponti. E infatti il ponte nella letteratura è raramente semplicemente un ponte. Prendiamo per esempio il ponte sul fiume Kwai, è decisamente più di un ponte. È una sfida fra un ufficiale britannico prigioniero e il comandante del campo di prigionieri giapponese. È una dimostrazione di professionalità e di bravura, ma è anche un dilemma fra la contentezza sentita per un lavoro difficile compiuto con tanti sacrifici e il dovere come soldato degli alleati. Probabilmente conoscete piuttosto il film, che è un bel adattamento, quindi ve lo raccomando, e non piango se scegliete il film. Questa volta. Anche il ponte San Luis Rey, che dà il titolo al romanzo di Thornton Wilder, è molto più di un ponte. Costruito dagli Inca, un giorno si rompe mentre 5 persone lo attraversano. Un padre, di nome Juniper, è testimone degli accaduti e si mette a cercare l'intenzione divina dietro la morte di queste persone. E non lo trova, nonostante le sue ricerche matematiche, mentre le persone coinvolte nella tragedia ne capiscono molto di più. Cioè che fra il mondo dei vivi e dei morti c'è un ponte, quello dell'amore, e che l'accaduto segna quelli rimasti indietro, che continuano a vivere. I ponti legano persone, culture. Un primo contatto, un'esperienza personale con un'altra cultura, per esempio, è un ponte, che poi attraversiamo varie volte prima di arrivare a capire cosa c'è sull'altra sponda. Qua a Bruxelles siamo abituati a convivere con tante altre culture, a guardarle, cercando di comprendere, senza aspettarci che altri abbiano il nostro stesso modo di fare. Il che vuole anche dire che abbiamo attraversato questo ponte tantissime volte. E quando invece il ponte era ancora nuovo, diciamo, non camminato, c'era ancora tantissimo da comprendere. E non dobbiamo andare molto indietro nel tempo, basta andare fino al fine dell'Ottocento e ritrovare la nostra Charlotte Brontë, che, come menzionavo prima, ha fatto un po' di anni di studio qua a Bruxelles. E di cui esperienze sono raccolte nel suo volume chiamato Villette. Leggendo il libro possiamo ben capire che i coetanei belgi di Charlotte Brontë non erano troppo entusiasti di questa allieva diventata famosa. Infatti nei suoi occhi le studentesse locali erano pigre, frivole, superficiali, disordinate, via dicendo. Ci si dà anche oggi facilmente a pensare in termini di pregiudizi, però questo modo di guardare... Oramai penso che ci sia comunque aliena, questo arrivare in un posto e pretendere che, cioè, non funziona come lo vogliamo noi, esattamente, ma magari siamo arrivati oltre. Neanche i ponti fra Europa e gli altri continenti erano facili da gettare. La superficialità dei colonizzatori e la loro voglia di accettare solo le condizioni di casa come valide hanno causato problemi che risentiamo fino ad oggi. Per immergerci o immergervi nell'atmosfera delle colonie vi raccomando due libri belli. Il primo sarebbe Il passaggio in India di Ian Forster, che racconta la storia di un malinteso. Una giovane ragazza inglese diventa la vittima di un attacco in una grotta buia dell'India, senza poter determinare chi l'aveva aggredita. Viene accusato un giovane dottore indiano, peraltro innocente, e da allora in poi tutto si trasforma in una tragedia nata da pregiudizi e dinamiche delle colonie. È un bel libro, ve lo raccomando. E... Ma anche raccomandi anche in questo caso il film, oppure non è un buon adattamento? Non l'ho visto. Ma secondo me è un buon adattamento, ma io non sono molto obiettivo. Non l'ho vista, purtroppo lo guarderò. L'altro libro che volevo menzionarvi è L'erba canta di Doris Lessing, premio Nobel, che racconta invece la vita dei colonizzatori bianchi nella Rhodesia, fra pregiudizi, crudeltà e la difficoltà delle relazioni fra colonizzatori autoctoni. La situazione ingiusta di base conduce all'impossibilità di un comportamento giusto. Trattare troppo bene un servitore nero è altrettanto sbagliato che trattarlo con troppa crudeltà. È difficile spiegare in un solo paragrafo, in un mezzo minuto, le ragioni o specialmente i moventi psicologici che ci sono dietro tutti questi comportamenti, ma Doris Lessing ce la fa ammirabilmente e ammirevolmente nel suo volume, quindi anche questo ve lo raccomando. È un po' triste, è un po' pesante, però è bellissimo. Ed ecco, per finire come sempre su una nota un po' più leggera, un po' più felice, possiamo solo dire con le cartoline brussellesi che l'europeo perfetto cucinerebbe come gli inglesi, guiderebbe come i francesi, sarebbe loquace come i finnici, disponibile come i belgi, riservato come gli italiani, organizzato come i greci, generoso come gli olandesi, umile come gli spagnoli e discreti come un danese, e così via. Imola, questo elenco non tiene conto dell'allargamento, per cui voglio dire... Infatti ancora devono fare anche il t-shirt allargato, però ancora non l'ho vista. Beh, io per riprendere sempre il cliché, sappiamo che agli spagnoli piace fare la festa, per cui io vi invito tutti alla Euroferia. Non so, per chi è nuovo a Bruxelles o per chi non ha mai partecipato, è veramente un evento molto molto interessante. L'Euroferia, che avrà luogo il 4, 5 e 6 giugno all'Atomium, prima lo facevano a Simonis, da un paio d'anni lo fanno all'Atomium, non è altro che una replica della feria di Siviglia e di tutta l'Andalusia qui a Bruxelles. Stand con musica, cavalli, cioè spettacoli tipo circo, insomma, musica, cibi. E tanta sangria e tanto divertimento. Io ve lo consiglio veramente. L'unica cosa, questo aneddoto, purtroppo tutti gli anni che fanno l'Euroferia piove. Cerchiamo di rompere questa tradizione. Però vi invito veramente il 4, diciamo dal 4 al 7 giugno alla sera alla Tomium. Beh, anch'io posso allora fare un invito a qualcosa di tradizionale qui a Bruxelles quando c'è bel tempo, sperando che non piova. Ed è la tradizione dei Belgian Rollers. Chi sta qui a Bruxelles ogni tanto avrà visto che nei tunnel viene annunciato venerdì sera Belgian Rollers, e adesso ricominceremo perché tra il 5 giugno e il 25 di settembre vi saranno diverse sere dedicate in alcune parti della città ai Belgian Rollers. Per chi fosse interessato, chi sono i Belgian Rollers? Sono delle situazioni familiari, direi, un po' per tutti, di persone che chiaramente vanno sui pattini a rotelle di vario tipo, quelli in linea, quelli a quattro, altre cose particolari. Quest'anno tra parentesi c'è anche la possibilità per le biciclette di seguire i Belgian Rollers, e passano per varie parti della città sotto gli sguardi curiosi di tanti che stanno ai bordi della strada, alcuni anche automobilisti un po' seccati, però credo che sia una cosa molto sana per partecipare. Per chi è interessato, in genere si svolge la sera, verso le 8, le 9, dipende, per chi è interessato il modo migliore per sapere quali sono i vari appuntamenti e in quali luoghi è di guardare nel sito, molto facile da ricordare, perché è www.belgiumrollers.com, e ci saranno tutte le indicazioni. Ripeto, è qualcosa di molto familiare, quindi non è che bisogna essere dei professionisti per partecipare, assolutamente. Lo spirito è proprio quello di stare tutti insieme e di divertirsi. Ultima segnalazione: dal 5 giugno, ogni venerdì, l'aperitivo a Saint-Job, la piazzetta di Uccle, in cui un insieme di alberi, verde, musica e bevande vi accoglie in un aperitivo, che in più è deliziato da una serie di concerti. Dal 5 giugno si parte con un gruppo che si chiama The Plains e si va avanti tutti i venerdì all'ora dell'aperitivo, per cui dalle 19 in poi, fino alla fine di agosto. Io, prima di salutarvi, vi ricordo i concerti alla Piola Libri il venerdì 5 giugno alle ore 19.07, di Lady Flavia, il prossimo, quindi musica reggae soul, Piola Libri, Rue Franklin 66-68 a Bruxelles, successivamente il 13 giugno Massimo Volume e il 14 giugno Il Genio. Prima di concludere questa puntata io vorrei fare un saluto nuovamente a chi stasera non c'è. Noi abbiamo cercato di lanciare dei ponti verso Maridì e Georges Laurent, che questa sera per diversi motivi non sono qui con noi. A me personalmente sono mancati tantissimo, e spero ci abbiano potuto ascoltare alle onde FM di Radio Alma 101.9. In ogni modo, noi abbiamo mandato tanti ponti verso di loro, sia con le parole di Mariella De Santis, sia con la musica che abbiamo ascoltato, con i libri di cui ci ha parlato Fiordaliso. Io li saluto, li ringrazio per tutto il lavoro che stanno facendo per Bruxellando, ci siete mancati talmente tanti, e direi che, se me lo consentite, una Bruxellando senza di voi è un po' come un cielo senza stelle. Così, per chiudere in poesia, ragazzi. Romantico. Va bene, buonasera a tutti. Noi vi salutiamo e a presto, alla settimana prossima. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Avete ascoltato Bruxellando, a cura della redazione culturale di Radio Alma.